Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, chiaramente i temi italiani che si intrecciano con i temi europei. Ancora non abbiamo notizie di quello che potrebbe decidere il governo. Circolano voci, come avete sentito anche dai nostri GR, di una lettera di intenti. Il tema è la riforma delle pensioni, ma questa mattina è bocciata un'ipotesi di aumentare e quindi innalzare l'età pensionabile da parte della Lega. Molto netto su questo il ministro Bossi. Nel frattempo invece qualche notizia in più arriva sul nuovo redditometro. Questa mattina infatti presentato dall'Agenzia delle Entrate il nuovo redditometro, che partirà in via sperimentale, però interesserà tutti i contribuenti, persone fisiche, e sarà applicato dalle dichiarazioni presentate nel 2010, quindi l'anno d'imposta del 2009. Stiamo parlando di 22 milioni di famiglie come platea potenziale, quindi 50 milioni di soggetti, e tra l'altro potranno verificare la propria posizione utilizzando il sistema dell'agenzia via internet. Ne parliamo perché sono entrati, da quello che si capisce, alcune voci come la barca, il cavallo, il pezzo di antiquariato, l'iscrizione al circolo sportivo, ma anche l'asilo, le spese per la golf e la Pay TV, con l'utilizzo, però chiariremo, della Pay TV, cioè quindi quanto guardi la TV a pagamento, quanto spendi per la TV a pagamento. Sono 100 complessivamente le nuove voci nel redditometro per verificare alla fine se il reddito dichiarato è coerente con il tenore di vita espresso dal redditometro stesso. E poi c'è in tutta questa serietà anche chi non ha, a mio avviso, il senso della situazione. Penso al senatore del PDL Antonio Tomassini, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, che ha detto: no, il cavallo deve restare fuori dal redditometro. Non sto scherzando, il cavallo fuori dal redditometro perché è un animale d'affezione, non come un bene di lusso. Uno potrebbe dire che anche la Ferrari è un'auto d'affezione, non un bene di lusso. Andiamo con le cose serie, va là, notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri SMS. Partiamo dal nervosismo, dalle borse. Meno 1,40% Milano, in linea va detto con Parigi che perde l'1,80%, Francoforte meglio, meno 0,60%, Londra anch'essa in calo dello 0,70%, l'America perde l'1,15%. Bene l'automatica, più 4,77%, Tenaris più 1,90% come Parmalat e Fiat Industrial, lo 0,60% lo guadagna Fondiere Assai e anche A2A. Pesante il calo invece per ST Microelectronics, meno 7,70%, Unicredito meno 4%, Mediaset meno 3,70%, Ansaldo STS, ma anche il Banco Popolare e Atlantia perdono il 2,60%. Enel meno 2,50%, Buzzi Unice meno 2,20% come Pirelli e Intesa San Paolo, ma anche Impregilo. Tra l'altro ST Microelectronics è la peggiore in assoluto. Faccio notare che vanno particolarmente male alcune banche francesi e le banche francesi in generale. Société Générale meno 4,90%, BNP Paribas meno 5%. Il miglior titolo oggi è Sole 24 Ore, per questo lo citiamo, più 9,90% a 1 euro per azione. Sappiamo, lo dico perché molti ce lo scrivono, che il livello è ancora sotto il livello di collocamento. Si vede già molti messaggi sul cavallo. Non so, è un animale d'affezione. Ho capito, il principio del redditometro non è stabilire se il cavallo sia un animale d'affezione più del gatto, del criceto, del canarino, è capire se sulla base di quanto dichiari 18.000 euro l'anno i gioiellieri, 13.000 euro l'anno i ristoratori, 50.000 euro lordi l'anno i dentisti. Cito tre dichiarazioni di redditi che ricordo a memoria. Ebbene, se sulla base di quanto dichiari ti puoi permettere il maneggio, il cavallo e quant'altro, no? Perché con 13.000 euro lordi l'anno o 18.000 euro lordi l'anno è difficile. Uno può, a meno che non vada a rapire i cavalli o prendere cavalli bradi, io ne ho visti molti pochi di cavalli bradi in questo paese. Comunque, no, lo dico per il senatore Tomassini che è subito intervenuto a dire che il cavallo non può essere inserito nel redditometro. Andiamo avanti, petrolio sale dell'1% e siamo praticamente a $92 al barile per quello che riguarda New York, $111 per quello che riguarda il Brent, l'oro in rialza $1658 sui mercati asiatici. Andiamo allora sul racconto di questa crisi tutta europea. Lo spread italiano è fermo, a un livello alto, ma è fermo, 390 punti. Domani cancellato, come vi hanno ricordato i nostri GR, il vertice Ecofin, quindi ministri economico-finanziari. Tutti i nodi saranno affidati al vertice in contemporanea dei capi di Stato e di governo. Praticamente diventava superflua la riunione dei ministri economico-finanziari e attenzione, perché il commissario agli affari economico-monetari dell'Europa, Olli Rehn, tramite il suo portavoce ha detto attenzione, quello che succede in Italia ha un impatto su tutto il resto dell'area euro e per questo Bruxelles dà indicazioni al governo italiano, ma non c'è alcuna intenzione di umiliare il paese. E qui ancora sullo sfondo la risatina di Sarkozy. The summit is tomorrow. We have not yet received the commitments. Il vertice è domani e non abbiamo ancora ricevuto gli impegni specifici che l'Italia ha detto di voler inoltrare ai presidenti del Consiglio europeo e della Commissione. Una volta ricevuti gli impegni dell'Italia ci pronunceremo, ma ancora non possiamo parlare perché non abbiamo niente in mano. L'Italia ha assicurato che avrebbe scritto una lettera entro domani, mercoledì, ma non ho indicazione dell'ora di arrivo. Sono sicura che l'Italia farà quanto promesso da Berlusconi al presidente Barroso e al presidente Van Rompuy. Sono assolutamente convinta che ciò accadrà. Voglio ricordare le parole del presidente Barroso, che si è detto convinto che l'Italia risponderà a dubbi e incertezze perché è un'economia molto forte. È vero anche che è un'economia a due facce, in cui una si comporta meno bene dell'altra. In Italia c'è molta innovazione, il governo italiano è determinato a mettere in opera tutto ciò che è necessario e, se serve, anche accelerando l'attuazione delle riforme utili al paese. Tout ce qui a déjà été annoncé et si nécessaire aussi d'accélérer les réformes structurelles qui sont nécessaires dans le pays. E appunto il richiamo della portavoce della Commissione europea, che era riferito all'impegno preso da Silvio Berlusconi per presentare domani all'Europa informazioni precise sui provvedimenti, c'è stato un errore. Adesso vi faccio ascoltare l'altro intervento, invece, che è appunto quello del portavoce del commissario europeo agli affari economico monetari, che ha ricordato l'Italia si becca i nostri suggerimenti perché è fondamentale quello che capita in Italia per il resto dell'Europa, ma non c'è nessun intento di umiliare il vostro paese. Il y a un parcours budgétaire qui est considéré approprié par les services de la Commission, notamment après le. Il percorso per il risanamento dei conti pubblici è considerato appropriato dalla Commissione. Dopo l'ultimo pacchetto di misure adottato a settembre, però, è necessario che il percorso di risanamento sia costituito da azioni concrete e che sia inserito in un orizzonte temporale chiaro. Per l'Italia non c'è nessuna umiliazione. Ma bisognerà cominciare ad abituarsi, perché è l'essenza stessa della nuova governance economica. Non c'è alcuna umiliazione, ripeto, ma si tratta della sorveglianza multilaterale sulle politiche economiche di bilancio degli Stati membri. È un fatto normale nel contesto di un'unione economica e monetaria. Sorveglianza sulle politiche di bilancio e anche delle politiche macroeconomiche, perché il punto è di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro. perché ciò che succede in Italia ha conseguenze su tutti gli altri Stati membri dell'euro e le osservazioni sui conti pubblici che abbiamo fatto ad altri paesi le facciamo anche all'Italia. Non c'è alcuna umiliazione nelle nostre osservazioni. Aucune humiliation que ce soit dans ces remarques. Messaggi sul cavallo, un attimo, ci arriviamo al cavallo. Giustamente qualcuno fa notare che anche i diamanti sono i migliori amici delle donne, quindi anche quelli andrebbero esclusi, secondo la logica del senatore Tomassini, dal redditometro. Vabbè, il vertice, lo stallo al vertice di maggioranza convocato da Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli. Bossi ha detto è impossibile toccare le pensioni, la gente ci ammazzerebbe, l'intesa è molto difficile, aspetto proposte, la lettera che è arrivata dalla Banca Centrale Europea l'ha scritta un italiano, è una fucilata a Berlusconi, in riferimento a Mario Draghi, giusto per diciamo, addolcire i rapporti con il futuro presidente della Banca Centrale Europea. E ancora dice Bossi, la situazione è pericolosa, si rischia la crisi, non facciamo governi tecnici, quando gli chiedono se un ipotetico premier potrebbe essere Gianni Letta. Noi abbiamo un sistema pensionistico che è più a posto di quello francese e tedesco. Penso, leggendo la lettera che ha mandato, sembra più un attacco a Berlusconi che tutto. Ma potrebbe cadere il governo? Ecco, come 67 anni non possiamo farlo. La gente si ammazza. Non può essere 67 anni. Poi i 40 anni devono essere lasciati, non vanno toccati. Il governo Lega, la Lega lo appoggerebbe. Noi facciamo governo tennis. Siamo contro, anche se chi fa quella roba lì è un italiano, perché si chiederà che dall'Europa è un italiano. La lettera l'ha fucilata a Berlusconi, però io le pensioni, 67 anni non le tocco. Fin lì non posso arrivare, posso trattare, però non posso toccare le pensioni che sono a posto e portare a 67 euro per far piacere ai tedeschi. Così il ministro Umberto Bossi, ancora due notizie sull'Italia, ne parleremo più avanti. Oggi la Confcommercio ha presentato gli stati generali dell'associazione a Milano e il presidente Sangalli ha detto attenzione, la recessione è vicina, basta rinvii, senza crescita la stagnazione è alle porte, la recessione è dietro l'angolo. Ciascuno, ha continuato Sangalli, che è il presidente della Confcommercio, non un leader dell'opposizione, dicevo, Sangalli ha continuato, ciascuno deve fare la propria parte, ma anzitutto e soprattutto la politica e chi oggi governa. Non sono tollerabili né rinvii né annunci, il tempo della partita è scaduto. Parleremo nella seconda ora del programma anche dell'annuale indagine sul risparmio degli italiani. Domani è la giornata mondiale del risparmio. Mario Draghi chissà come sarà contento dopo le parole di Bossi, e il ministro Giulio Tremonti, quindi il governatore ancora per poco della Banca d'Italia, e il ministro dell'economia si troveranno assieme, anche il presidente dell'ABI Mussari, per la giornata del risparmio. Oggi presentato il rapporto dell'ACRI, che è l'associazione delle fondazioni e casse di risparmio, ne parleremo più avanti. Dicevo, vi do solo un titolo: c'è una ripresa piccola degli investimenti grazie a un po' di inflazione e i tassi molto bassi offerti dai conti correnti. Ma il mattone, pur restando un bene rifugio scelto dagli italiani, crolla come tipo di investimenti. Praticamente rispetto al 54% dell'anno scorso che dichiarava di poter investire in mattone, adesso siamo scesi al 43%, siamo ai livelli del 2001 come propensione all'investimento nel mattone. (349) 238 6666 per i vostri SMS. E allora partiamo dal nuovo redditometro, oggi presentato dall'Agenzia delle Entrate, che appunto introduce 100 voci nuove per capire se i tuoi redditi sono simili a quello che è il tuo tenore, giustificano, per meglio dire, sono coerenti con il tuo tenore di vita. La cosa, che effettivamente anche perché piove, c'è maltempo dovunque, il governo rischia la crisi, ogni tanto sorridiamo anche noi, e ci ha alzato una palla spettacolare il senatore Tomassini, che appunto dice: attenzione, il cavallo resti fuori dal redditometro, deve essere riconosciuto come animale d'affezione e non come bene di lusso. Continua il senatore in una dichiarazione: il reale valore del cavallo va rapportato all'animale da sella non classificato, una categoria nella quale rientrano 800.000 esemplari in Italia che creano indotto per 2 milioni di persone. Poi continua discettando che il cavallo, quando ha 11-12 anni, smette di essere una fonte di reddito e può essere utile per attività di supporto, tra cui l'ipoterapia, giustissimo. Tenere questo animale incluso nel redditometro in maniera acefala non è corretto. Marco Mobili del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Non te lo aspettavi, Furia, eh? Non l'aspettavo, molto bene. No, perché voglio dire, io capisco, c'è giustamente chi dice che, scrivono alcuni ascoltatori, che se tu dichiari 18.000 euro lordi l'anno e hai anche il cavallo da maneggio, ne fai bistecche a quel punto, perché se no non si capisce come tu possa tenere assieme le due cose. Allora, visto che alcuni stanno già scrivendo, i ristoratori 13.500 euro lordi, commercianti 12.000 euro lordi, commercianti all'ingrosso 19.000 euro lordi l'anno, dentisti 50.000 euro lordi l'anno, gioiellieri 18.000 euro lordi l'anno. Questi sono alcuni dei dati che spiccano nelle annuali dichiarazioni dei redditi, dove praticamente il reddito medio di un italiano è 18.488 euro lordi l'anno. Più volte abbiamo ricordato che c'è qualcosa che non va, per essere buoni, perché ci sono 1 milione di auto che hanno una cilindrata superiore ai 2500 cc e quindi costano, diciamo, dai 30-40 mila euro in su, a essere buoni, e ci sono 94 mila barche sopra i 10 metri. Come funzionerà questo nuovo redditometro? Da quello che ci hanno spiegato oggi il direttore Attilio Besara dell'Agenzia delle Entrate e il direttore accertamento Luigi Magistro, si capisce appunto che l'Agenzia delle Entrate, il fisco, vuole andarci a vedere come è possibile con redditi dichiarati in media così bassi, a volte ci siano appunto dei tenori che non possono e non corrispondono, non sono coerenti a quanto emerge poi dalle dichiarazioni dei redditi che sono in possesso dell'amministrazione finanziaria. Lo strumento che hanno messo a punto è molto articolato, cioè non si limita come il vecchio redditometro a poche voci di spesa fondate su coefficienti dove peraltro non si conoscevano neanche le note metodologiche, cioè quale valore avessero nell'incidenza nel calcolare la spesa e la capacità contributiva del soggetto. Questo invece, diciamo, è molto più articolato e studiato, si vede, c'è uno studio profondo dietro, va detto, e la prima cosa che ha ribadito Befera oggi alle associazioni di categoria, ai professionisti, alla stampa che ha partecipato all'incontro, che appunto che il redditometro non sarà mai, almeno ora dice, non sarà mai uno strumento di massa, di accertamento di massa, sarà selettivo, come indicatore di rischio per concentrare l'attività antievasione su determinati soggetti, appunto che alla luce del tenore di vita mantenuto in base a 100 voci di spesa che non sono affatto poche, l'individuazione poi di 11 tipologie di famiglie diverse che poi possono moltiplicarsi e 5 e anche con l'indicatore geografico dovrebbero fornire al fisco una reale fotografia della capacità di spesa e reddituale del contribuente. In più l'altra grande novità è che punteranno anche, grazie a una norma che hanno inserito in nell'ultima finanziaria, la manovra di Ferragosto, anche ai patrimoni. In sostanza il fisco a breve potrà dire e conoscere del contribuente italiano quanto spende, quanto guadagna e quanto risparmia. A quel punto, come ha detto Befera brevemente oggi, il cerchio si chiude e da lì potranno puntare e indirizzare il mirino sull'evasore, quasi andando a colpo sicuro, almeno da quello che dico. Ecco, tu citavi già l'intervento di Attilio Befera, che è direttore dell'Agenzia delle Entrate, lo ha intervistato il nostro Francesco Marinelli. Il nuovo redditometro comprende tutta una serie di categorie di spese che erano escluse dal precedente e la novità più importante secondo me è che stiamo costruendo uno strumento che vogliamo mettere principalmente a disposizione dei cittadini perché possano da soli determinare la coerenza fra quanto dichiarano e quanto spendono, e questo perché vogliamo che ci sia più uno strumento di compliance, di prevenzione, più che uno strumento di repressione o di controllo successivo. Ma gli evasori totali sul redditometro credo che abbiano scarso interesse, visto che sono evasori totali. Lì invece intendiamo agire e agiamo sempre più insieme alla Guardia di Finanza per scovarli, e in quel caso però non per applicare il redditometro, ma per reprimere questo fenomeno. La logica è che noi andremo innanzitutto sugli scostamenti molto alti fra livello di spesa e reddito dichiarato. Non usiamo il redditometro per fare l'accertamento, ma sarà la base dell'accertamento, quindi come analisi del rischio e quindi per l'individuazione dei soggetti poi da controllare. Ovviamente, per quanto riguarda eventuali scostamenti non particolarmente alti, useremo delle ulteriori presunzioni per cercare di capire se c'è un'evasione, mentre tutto ciò che è scostamento modesto non verrà assolutamente preso in considerazione. Quindi qualità di coerenza? Stiamo determinando questi indici, adesso siamo in fase di sperimentazione con le associazioni e insieme a loro cercheremo di individuare gli indici che siano logici. Più che indici, io direi comunque saranno degli scostamenti rilevanti di cifre, di importi, in valore assoluto. Scostamenti, l'ha detto due o tre volte Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate, gli scostamenti più rilevanti. Resta con noi Marco Mobili, perché il nostro Francesco Marinelli ha raggiunto anche il direttore dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Luigi Magistro. È uno strumento soprattutto per la compliance. Attraverso la stima del reddito familiare, che questo apposito strumento consentirà di fare a qualsiasi contribuente, ci si potrà rendere conto di quello che vede il fisco, e quindi nel momento in cui i redditi dichiarati sono inferiori a quelli stimati, se non ci sono delle precise giustificazioni, c'è da aspettarsi un sicuro controllo. Il redditometro misura, in funzione di una serie di voci di spesa, oltre 100, quello che è un reddito potenziale del nucleo familiare, e lo fa differenziando per area geografica e per tipologia di nucleo familiare. Questo reddito potenziale viene preso a base dal fisco per orientare l'attività di controllo. Se lo scostamento è molto forte, vuol dire che c'è un teorico rischio elevato di evasione e quindi ci saranno sicuramente dei controlli approfonditi. Se lo scostamento è basso, vorrà dire che il soggetto è più o meno in regola da questo punto di vista. Allora, con buona pace del senatore Tomassini, che dice levate i cavalli dal redditometro. Marco Mobili, molti vogliono sapere, vorrebbero che ci fornissi qualche esempio di questi controlli incrociati. Facciamolo dopo il metodo e la pubblicità. Una risposta però la vorrei subito. Se ho ben capito dall'ultimo ragionamento del direttore dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Magistro, io potrò andare su internet, nel sito dell'Agenzia delle Entrate, e verificare che cosa? Cioè, rispetto alla mia dichiarazione dei redditi, quello che stima l'agenzia? Cioè, nel senso, io potrò, con un software che si sta mettendo a punto, adesso siamo in una fase sperimentale, da febbraio, una volta testato sarà disponibile ufficialmente sui siti, potrò verificare se, indicando le mie capacità di spesa, il mio reddito dichiarato saranno coerenti uno con l'altro. E quindi preventivamente posso sapere che margini di rischio corro. Cioè, quindi, come spiegava Magistro, cioè, se tu hai uno scostamento molto alto te la puoi attendere il controllo della posso attendere che insomma il mio reddito dichiarato poi non sia così coerente col mio tenore di vita. Non comprende i cavalli, ma molto alto. A parte che mi fanno notare che il cavallo, il mantenimento di un cavallo, adesso io leggo quello che scrivete, costa dai 500-600 euro al mese, ci credo. No, ecco, poi dopo, essendo 100 voci, le spese sono tante, le spese, esatto. Le spese per il cavallo, sì. Poi tra l'altro la storia antica ci insegna un certo rapporto tra i senatori e i cavalli, no? Perché anche di stare attento anche Tomassini, perché poi si va indietro nel tempo, c'è chi voleva nominare al regno un cavallo. Comunque andiamo col metodo, la pubblicità, poi vorrei che tu mi facessi un esempio concreto di come incrociano i dati l'Agenzia delle Entrate, cioè un certo tipo di spese, dove va a finire, come compone, diciamo, il mio reddito presunto. E poi ne parliamo anche col presidente dei commercialisti italiani, Claudio Siciliotti. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:38 di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, Marco Mobili, un esempio, mentre ci ha raggiunto in diretta anche il presidente dei commercialisti italiani, Claudio Siciliotti. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, non le faccio risentire la calzoncina sul cavallo, le dico solo che il senatore Tomassini ha detto che il cavallo andrebbe levato dal redditometro perché è un animale d'affezione, non può essere considerato un elemento per il redditometro. Al di là, diciamo, di chi ha buon tempo, Marco Mobili, com'è che funziona questo incrocio i dati che poi potrò andare a controllare su internet? Premesso che la scatola nera, come è stata definita oggi, non è stata comunicata, cioè non viene resa pubblica, quello che si è capito è che il fisco, sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, quindi sono le 100 voci di spesa di cui abbiamo finora parlato, verranno messe in relazione in base a una metodologia statistico-matematica che sarà applicata a gruppi omogenei di famiglie. Le famiglie individuate sono pari a 22 milioni praticamente, abbiamo un panel di 50 milioni di soggetti, di persone fisiche. I dati acquisiti dall'amministrazione finanziaria sono quasi tutti già in loro possesso, perché incroceranno i dati dell'anagrafe tributaria con quelli dell'INPS, del PRA, dell'INAIL, della SIAE, quelli provenienti dai comuni. Ci saranno poi le campagne dedicate della Guardia di Finanza, magari quando... Perché c'è dentro anche la TV a pagamento, ma se ho ben capito, è quanto quanto paghi per la TV a pagamento o no? È uno o basta l'abbonamento? Perché obiettivamente l'abbonamento non è una cifra tale da discriminare, molta gente magari, diciamo che la voce non esce il weekend, prego. Scusami, la voce che emerge è quell'abbonamento di Pay TV, per cui ci sarà il flusso un po' della tua passione, o calcistica, se paghi a pagamento le partite, piuttosto che quella del cinema, mi viene da pensare. Così come c'è anche un'altra voce che mi incuriosisce, è quella dei giochi online, che sta prendendo sempre più piede, e che quindi anche i famosi conti online per il poker, piuttosto che i casinò, rilanciati dallo stesso governo, entreranno dall'altra parte come indice di capacità contributiva. Però, dico, è la somma, perché io potrei spendere, non so, 80 euro o 100 euro al mese di Pay TV perché mi piace il calcio, poi non esco, non vado al ristorante, non ho altre attività, cioè lo uso come mia unica forma di svago, quindi è la somma di un insieme di attività? È la somma, viene messa ovviamente in questa funzione di regressione che viene calcolata sulla base dei 55 gruppi omogenei che sono stati creati, che poi verranno inseriti in questo software dove ogni variabile avrà il suo peso. Che ad oggi non conosciamo, non è conoscibile. Cioè, quanto peserà il cavallo rispetto all'asilo, rispetto alla Pay TV, e poi ci sono anche le aree geografiche, 5 aree geografiche. Non è dato conoscere. 11 tipi di nuclei familiari e 100 voci di spesa. Allora, presidente Siciliotti, il redditometro, insomma, ha più vantaggi o svantaggi? Intendo dire che diventa. Befra, prima l'abbiamo sentito, ha detto non sarà uno strumento di accertamento fiscale, servirà per far partire l'accertamento fiscale. Ecco, questo è l'elemento fondamentale. Cioè, io ho di fronte la slide 19 dell'Agenzia delle Entrate, ipotesi di utilizzo, finalità dello strumento. Lo strumento di stima viene utilizzato esclusivamente, sottolineato, per orientare il contribuente verso la compliance, che, detto della serie parla come magni, significa l'adempimento, e per potenziare l'analisi del rischio di evasione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Finché viene utilizzato esclusivamente a queste finalità, come è scritto, il giudizio è favorevole, perché in fondo ci sono contenute tutta una serie di manifestazioni di consumi. Sarà un animale d'affezione il cavallo, ma indubbiamente chi ha i soldi per poterselo comprare deve anche dimostrare come quei soldi li ha guadagnati, quindi è comprensibile questo. Quello che a noi fa paura, o che potrebbe fare paura, è che qui c'è una presunzione legale su questo, c'è un articolo 38 riformato dalla manovra estiva che permetterebbe teoricamente all'agenzia di poter passare da questo elemento a un accertamento automatico. Quindi bisogna stare attenti, è un po' la storia che è avvenuta per gli studi di settore, dove tante belle parole non è un elemento che può determinare un accertamento automatico, poi gli uffici lo usano così. Quindi a questo bisogna porre... Cioè voi dite, finché è il modo in cui l'Agenzia delle Entrate va a incrociare la tua dichiarazione dei redditi con quello che è il tuo tenore di vita e decide che se lo scostamento è molto alto inizia a aprire un'indagine, va bene. Non se va bene. È un elemento automatico, come qui è scritto che non è. Per cui noi prendiamo atto di questa dichiarazione e consideriamo questa una dichiarazione estremamente importante. Se viceversa gli uffici lo dovessero interpretare come uno strumento automatico, e allora tutte le incognite, quello che si diceva prima, cioè i coefficienti non sono noti, e come si passa da determinati dati relativi ai consumi a un determinato reddito, come tutto questo viene filtrato attraverso una presunzione di territorialità e di nucleo familiare, attenzione che è evidente che il nucleo familiare pesa all'incontrario di quello che dovrebbe essere il concetto di quoziente familiare, cioè più gente hai e più reddito ti accerto. È chiaro che è così, quindi attenzione a tutto questo. Allora, in questa situazione noi esprimiamo preoccupazione. Se viceversa viene utilizzato, come qui è scritto, per orientare il contribuente a rendersi conto della sua situazione rispetto alle manifestazioni di consumo o di ricchezza patrimoniale e per potenziare l'analisi del rischio di evasione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma non come strumento automatico d'accertamento, siamo su un terreno in cui siamo d'accordo. Ci sarà una fase di sperimentazione, potremmo introdurre dei correttivi, utilizzato come accertamento è chiaro. Apre la guerra. Io penso che poi ci possa essere anche un effetto virtuoso in cui uno va a vedere, quando sarà lo strumento operativo su internet, qual è il reddito, il tenore di vita che l'Agenzia delle Entrate gli attribuisce rispetto alle sue dichiarazioni, e magari possa muoversi prima dell'accertamento, mettiamola così. C'è stata due cose però, Siciliotti, rapidamente. La prima è come si inserisce però il redditometro con gli studi di settore che lei evocava poco fa, e la seconda invece riguarda anche perché, lo chiedono molti ascoltatori, non si va a controllare un po' di più il contante. Cioè, noi sappiamo che in questo paese l'economia in nero funziona ovviamente con il contante, bloccando il numero di la quota. Prodi era arrivato fino a quasi 100 euro, vado a memoria, 100-500 euro. Perché non si interviene anche su quello, sapendo che poi le transazioni... Ma guardi, allora, sulla prima cosa, i due strumenti sono paralleli. Gli studi di settore riguardano i piccoli e gli autonomi, il redditometro, così come riguarda tutti, la generalità dei contribuenti. Quindi per chi è piccolo e autonomo potrebbe valere entrambi i due strumenti per cercare di capire effettivamente qual è la sua consistenza reddituale effettiva alla luce di entrambe le cose. Per quanto riguarda la seconda domanda, è giusto. C'è un abbassamento della soglia di tracciabilità, è auspicabile nella misura in cui gli strumenti alternativi di tipo elettronico ormai si vanno diffondendo, ed è logico pensare che sia ridotta la soglia del contante. Chiaramente sia ridotta per tutti, non come qualcuno aveva fatto in passato, imputando tutto questo agli autonomi, in particolare ai professionisti, additandoli all'esterno come i soggetti potenzialmente... Ecco, se è fatta per tutti, io credo che sia uno strumento corretto. E quindi obbligo quasi di pagare tutto con carta di credito e bancomat. Non mi tirate fuori la vecchietta, perché con questa cosa la vecchietta non lei. Gli ascoltatori, perché la vecchietta è sempre quella che non può mai far niente, non può usare il telecomando, poi ha imparato, su, è una scusa la vecchietta. Marco Mobili, in una battuta, perché devo lasciare la linea poi al traffico, quando avremo poi la prima sperimentazione? Tu l'hai capito? Cioè, quando potremo andare su internet e vedere come vanno i... Perdoni, parte una fase di sperimentazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto aiuto alle associazioni di categoria e ai professionisti per testare il meccanismo, lo strumento. Da febbraio sostengono che si potrà partire, quindi da fine febbraio avremo molto probabilmente il software in linea col Ministero delle Finanze. Ecco, molti scrivono, basterà intestare alcune spese alla nonna, ho capito, però poi anche quella, se ha una pensione piccola, deve giustificare perché... A un certo tenore di vita. Sappiamo tutti che si possono aggirare queste cose, però attenzione, in maniera un po' più difficile a mio avviso questa volta. Andremo a vedere poi l'implementazione sul senatore Tomassini, magari una risposta sul cavallo del senatore Tomassini. Sì, è Caligola quello che nominò il senatore il suo cavallo, siamo bene d'affezione. Non so cosa vorrà fare Tomassini, ma mi sembra che ne abbiamo già parlato abbastanza, perché ogni tanto il senso di ridicolo non manca. 349-238-6666 per i vostri sms. Grazie a Claudio Sicigliotti, presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, a Marco Mobili del Sole 24 Ore. Adesso il traffico, poi la borsa. minuti, la borsa adesso, in attesa del Consiglio dei Capi di Governo di domani. Ripeto, ha cancellato il vertice Ecofin perché pleonastico, perché in più intanto tutti i nodi saranno nelle mani dei capi di Stato e di Governo. Speriamo di evitare risatine questa volta, che le evitino soprattutto i diretti interessati. Non torno, lo dico a chi chiede, sul tema di Sarkozy, ne abbiamo già parlato ieri, la mia opinione su questo è arcinota, ha sbagliato, non ci si comporta così. Qualunque cosa abbia fatto l'Italia, qualunque cosa abbia fatto Berlusconi nel passato, uno non può usarla come giustificazione per avere una reazione così tra l'infantile e l'arrogantiello. Allora, Estima Microelectronics meno 7,42, Unicredit meno 3,40, Mediaset meno 3%, Atlantia meno 2,60, Ansaldo STS meno 2,5%, Banco Popolare meno 2,40, Buzzi Unicem meno 2,33, Enel meno 2%, la borsa. Tenaris più 2,36%, Fiat Industrial più 2,22%, Parmalat più 2%, Fondiaria più 1,50%, Telecom più 1,40%, A2A più 1,32%. Non sorrido perché alcuni ancora nel merito del redditometro e del senatore Tomassini che vuole eliminare il cavallo dal redditometro. Io ho detto prima magari un'intesta le cose alla nonna, e poi alcuni scrivono beh, bisognerà verificare se la nonna va a cavallo, perché potremmo avere anche casi strani di nonne tuagenarie che vanno a cavallo. Meno 1% l'indice complessivo, meno 1,43% Parigi, meno 0,14% Francoforte, meno 0,40% Londra. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, ha pesato l'annullamento dell'Ecofin o ha pesato un po' di più la fiducia dei consumatori sia americani che italiani, in netto calo? Certamente sul momento sul momento immediato la cancellazione dell'appuntamento Ecofin ha creato un po' di difficoltà, un po' di smarrimento sulle borse che sono passate immediatamente in negativo mentre prima viaggiavano in positivo, quindi ha sicuramente pesato. Le borse sono arrivate a perdere Milano anche l'1,6-1,7% e dopo hanno recuperato. Questa notizia però è coincisa, come tu ricordavi, con la notizia negativa sotto il profilo macroeconomico della fiducia dei consumatori americani, che è uscito alle 16, e questo dato, il peggiore dal marzo del 2009, ha certamente contribuito a mantenere l'andamento dei listini in negativo anche dopo che si è capito che insomma la cancellazione dell'Ecofin insomma non corrispondeva a una parte non era un atto drammatico, ma era diciamo la voglia di non avere due vertici in sovrapposizione, mettiamola così. Che è successo a ST Microelectronics? Per quanto riguarda ST, i conti di oggi sulla trimestrale e sulla terza trimestrale sono stati molto negativi, sono andati in netto calo i profitti, e soprattutto questo ha portato a una revisione al ribasso delle previsioni per il futuro. Per gli ultimi tre mesi del 2011 l'azienda prevede ora un fatturato compreso tra i 2,15 e i 2,3 miliardi di dollari, quindi una contrazione delle stime, a cui è coincisa poi una lettura di dati negativi proprio sul terzo trimestre. Questo spiega perché è stato il peggiore sia a Milano che a Parigi. I migliori in assoluto: Acotel Group più 11%, CIA più 8,70, Sole 24 Ore più 6,65%, fronte opposto risanamento meno 5,80 e appunto Estima Microelectronics meno 7,40 e poi poco altro. Edison, perché ieri il nulla di fatto, insomma la proposta di vendere a 1,5 euro per azione respinta dai francesi, poi è arrivata la proposta francese respinta da A2A, quindi milanesi e bresciani. Il titolo oggi? titolo oggi è negativo, meno 1,36%, la possibile mancanza di assenza di OPA come soluzione a questo riassetto di Edison certamente non piace al mercato, ha viaggiato in negativo Edison, ha viaggiato in positivo invece A2A più 1,3%, si è un po' risollevata, ma certo c'è ancora grandissima incertezza, come tu ricordavi, sulla partita Edison, e questo non piace al mercato, che si attendeva invece una soluzione in tempi brevi. Ancora tra i titoli, per quello che riguarda le banche, volete sapere? Beh, allora, Tenaris è andata bene, più 2,36 e non è una banca. Fiat Industrial più 2,22, Parmalat più 2,1, Fondiaria più 1,5, Telecom più 1,5. Devo dire che oggi sono andati più, insomma, hanno avuto crescite più consistenti i titoli legati al ciclo economico, ai settori industriali, meno la parte finanziaria. A2A più 1,32, Autogrill più 0,60. Per cento. Parliamo però anche di banche e di Mediaset, che insomma, perde il 3%, mentre Unicredit perde il 3,40% dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento di borsa, e poi veniamo all'analisi della Confcommercio e al rapporto Ipsos-Acri che, come ogni anno, arriva il giorno prima della giornata mondiale del risparmio, che è domani. Verrà presentato il rapporto anche di fronte al governatore della Banca d'Italia Mario Draghi e al ministro dell'economia Giulio Tremonti e al presidente dell'ABI Giuseppe Mussari. Dicevamo della borsa, allora i bancari, Andrea Fontana, perché Unicredit meno 3,40 ma anche Mediaset meno 3%. Sì, per quanto riguarda Unicredit abbiamo visto come sia spesso la più penalizzata del settore, soprattutto quando le indicazioni macroeconomiche europee nello specifico non sono positive, e ancora qui naturalmente gli analisti hanno gli occhi già puntati al prossimo 14 novembre per il prossimo CDA, per capire se i rumors di aumento di capitale avranno fondamento oppure sono solamente voci. Comunque l'intero settore bancario negativo. Sì, calcolato e stimato in 2-3 miliardi addirittura quello che costerebbe l'aumento di capitale. Beh, sì. Le ipotesi sono molto diverse, molti hanno ipotizzato anche cifre più elevate. Sì. Più elevate. Per quello che riguarda Mediaset? Per quanto riguarda Mediaset, domani c'è l'attesa sui conti di Telecinco, ma non è tanto quello a penalizzare, perché Mediaset in Spagna invece ha chiuso in positivo con un guadagno superiore all'1%, certamente i conti di Telecinco non dovrebbero essere troppo brillanti, ma forse indicare un recupero dei ricavi pubblicitari, ma certamente la situazione di possibile incertezza politica nel nostro paese finisce per penalizzare Mediaset, che ricordiamo insomma è controllata da Fininvest e dal presidente del consiglio Silvio Berlusconi, e questo è quello che ha pesato oggi. C'è la variabile politica sul titolo, c'è la tenuta del governo sul titolo. Atlantia meno 2,60, Ansaldo STS meno 2,5, Banco Popolare meno 2,40, Buzzi Unice meno 2,33, Enel meno 2% come in pregiro, Snam Rete Gas meno 1,80 come Pirelli, 1,5% lo perde Intesa San Paolo, ma anche Luxottica e Prismian, ossia l'ex Pirelli Cavi, Ubibanca meno 1,30%, Finmeccanica meno 1 come Eni e Terna. È di positivo, ma lo ricordo perché si fosse premesso in collegamento, l'Automatica più 5,30, Tenaris più 2,30, Fiat appunto più 2,20, Parmalat più 2,1%, Fondiaria più 1,5 come Telecom Italia e A2A più 1,3%. Grazie a Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Buonasera. Allora, non possiamo tornare sul redditometro, abbiamo fatto la prima parte del programma e anche, dunque, molti i messaggi che stanno arrivando, domande. Io vi anticipo, domani su Sole 24 Ore ci sono due pagine almeno sul nuovo redditometro, quindi cosa cambia, gli esempi sull'applicazione, quello che noi abbiamo cercato di fare in sintesi in apertura, e soprattutto da febbraio, se abbiamo ben capito, la possibilità di andare a controllare online, quindi via internet, quello che stima l'Agenzia delle Entrate come vostro potere d'acquisto, reddito, e invece rispetto a quello che è la vostra dichiarazione dei redditi, sapendo che quando la distanza è molto alta, l'ho detto prima Befera, l'avete sentito, scatterà quasi in maniera automatica un accertamento. Non torno sul senatore Tomassini, abbiate pazienza, chi si fosse appena messo in collegamento, Tomassini ha chiesto, senatore del PDL, che il cavallo esca, non stia dentro il redditometro, perché il cavallo è un animale d'affezione e non un bene di lusso. Al di là del fatto che fanno notare che costa il mantenimento del cavallo almeno 500 euro al mese, abbiamo messo anche la sigla Furia Cavallo del West, non è che posso continuare con Tomassini. Una cosa però la devo dire, non c'entra nulla, lo dico a chi scrive, il fatto che il senatore Tomassini da medico è stato condannato nel 2000 in via definitiva a 3 anni per falso in certificazione per aver alterato la cartella clinica relativa a un parto da lui effettuato in cui la neonata tra l'altro subì gravi lesioni cerebrali. Questa è una vicenda che si è chiusa con la magistratura, il senatore è stato condannato a 3 anni per falso in certificazione. Il motivo per cui noi parlavamo di Tomassini oggi è un altro, è la sua dichiarazione, secondo me, al limite del ridicolo, in cui il cavallo non è un bene di lusso ma un bene d'affezione, il valore del cavallo va rapportato all'animale da sella non classificato, e poi attenzione, dice, l'attività di supporto è sbagliato includere in maniera acefala l'animale nel redditometro. La Confcommercio, il presidente dei commercianti italiani Carlo Sangalli, chiede oggi durante gli stati generali dell'associazione dei commercianti che si stanno svolgendo a Milano, chiede al governo di governare e avverte: attenzione, la recessione vicina, basta rinvii, i voti di fiducia non danno la governabilità. Da troppo tempo le nostre imprese attraversano delle grandi difficoltà, non ce la fanno più. Abbiamo promosso gli stati generali per chiedere alla politica tutta, in modo particolare all'esecutivo, di mettere in campo una governabilità responsabile ed ambiziosa, perché lo richiede la straordinaria difficoltà del momento. Una governabilità che non è automaticamente garantita dai voti di fiducia, ma che deve innescare, ma che deve mettere in campo delle risorse, delle politiche che vadano a rafforzare in maniera determinante la crescita. Perché oggi c'è bisogno di più crescita, oggi c'è l'assoluta necessità e l'urgenza di un passo nuovo e diverso che reclama politiche e riforme a favore della crescita. E le riforme che noi chiediamo sono certamente la riforma previdenziale e la riforma fiscale, e le politiche che noi chiediamo sono quelle che abbiano una particolare attenzione anche al mondo che noi rappresentiamo, a quell'economia dei servizi che vale qualche cosa come il 58% del PIL e il 53% della occupazione. Così appunto il presidente della Confcommercio Carlo Sangalli, intervistato dalla nostra Anna Marino. E allora, dal redditometro agli investimenti degli italiani, domani appunto è l'87esima giornata mondiale del risparmio, da noi l'organizza l'ACRI, che è l'associazione che rappresenta le fondazioni bancarie e le casse di risparmio. Vi saranno il presidente dell'ACRI Guzzetti, il presidente delle banche italiane Mussari, il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi e il ministro dell'Economia e Finanze Giulio Tremonti. Dopo il traffico parleremo del rapporto presentato oggi, come sempre il giorno prima, il rapporto sugli italiani e il risparmio, gli italiani e gli investimenti. Vi dico subito che si è tornati ad investire, complici bassissimi rendimenti dei conti correnti, una certa inflazione anche e soprattutto importata, però non va bene il mattone, cioè il mattone ha subito un tracollo come scelta, come dichiarazione di intenti negli investimenti. Ne parliamo però dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. 18-19 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. C'è chi scrive al 349-238-6666. È poco democratico costringere le persone a utilizzare forme di pagamento elettronico, cioè la carta di credito o il bancomat, o con assegni. Sarà anche poco democratico, ma quando tu devi gestire 220 miliardi di imponibile evaso, quindi 120 miliardi tra IRPEF, IRES, IVA, IRAP, evaso, da qualche parte lo devi affrontare questo fenomeno. E all'estero, per esempio, si usa molto di più la carta di credito e il bancomat, perché è tracciabile, anche l'assegno. Comunque, restiamo in tema di soldi, ma questa volta di soldi risparmiati e investiti oppure non investiti. Dottor Nando Pagnoncelli, presidente dell'Ipsos, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, voi come ogni anno avete presentato il giorno prima della giornata mondiale del risparmio l'indagine con su timori per il futuro, intenzioni di investimento. Sentiamo prima di tutto il commento generale che il presidente dell'ACRI, Giuseppe Guzzetti, ha rilasciato al nostro Vincenzo Miglietta. Questa indagine della Ipsos ci dà un primo elemento positivo, che rispetto agli scorsi anni, dove la percentuale di famiglie che risparmiavano si riduceva molto forte, quest'anno siamo abbastanza stabili, siamo al 35% delle famiglie rispetto a un 36% del 2010. Quindi questo è un dato che noi, nella sua oggettività, che è positivo, così come è positivo l'altro dato che gli italiani, nonostante tutto, le difficoltà che abbiamo, gli spettacoli che vengono dati, sono sempre propensi al risparmio, lo reputano un valore, lo reputano una necessità anche per la tranquillità del loro futuro. Quindi il fatto di avere italiani che credono ancora nel risparmio, che vorrebbero risparmiare di più, ma non lo possono fare perché talvolta i loro redditi a malapena coprono le spese o addirittura devono prelevare dal risparmio accumulato negli anni precedenti, il fatto però che il risparmio sia ancora un obiettivo o una finalità degli italiani è positivo. Sì, purché il risparmio da obiettivo non diventi miraggio o sogno. Perché, ha scoperto l'Ipsos, aumenta il numero di famiglie in saldo negativo di risparmio, cioè quelle che non solo non risparmiano, ma devono toccare i risparmi per la vita quotidiana o prestiti. Sono il 29% in tutta Italia, tantino, 29%, il 40% al sud contro il 34% del 2010. E poi in crescita quelli che ritengono peggiorato il loro tenore di vita, dal 18 al 21%, e si riducono tutti i consumi tranne il farmaceutico. Allora, Nando Pagnoncelli, alcune cose ce le immaginavamo, ma quanto ha pesato l'evoluzione / accelerazione di questa crisi nell'ultimo anno, cioè da quando la Grecia è diventata il malato marzo-aprile, poi tutta la concatenazione Irlanda, Portogallo, Spagna, fino ad arrivare al pesce grosso, cioè l'Italia? Ha sicuramente avuto un forte contributo in questa visione così negativa, in questi comportamenti che da un lato, come dice il Presidente Guzzetti, sono incoraggianti, la tenuta del risparmio e soprattutto il valore che gli italiani attribuiscono al risparmio, e dall'altro appunto una situazione che sembra appunto deteriorarsi. Da un lato abbiamo una percezione di una gravità crescente della crisi, addirittura due italiani su tre pensano che il peggio debba ancora arrivare, per cui siamo in crisi da 3 anni, spostano sempre più in là il termine presunto di fine della crisi, prefigura una crisi che durerà ancora 4 o più anni, mamma mia. In una situazione di questo tipo evidentemente il risparmio rappresenta un elemento di sicurezza, da un lato per poter far fronte, come dire, alle spese quotidiane e poter comunque garantire la tenuta del potere d'acquisto, dall'altro evidentemente come rassicurazione rispetto al futuro, tenuto conto del fatto che si aspettano, a differenza di quanto rilevammo 10 anni fa, un futuro post-lavoristico, quindi una pensione decisamente molto preoccupante. Ecco, questo dato, visto che il tema oggi di attualità, dopo che Bossi ha detto non se ne parla proprio di modificare l'età della pensione e si è rischiata una crisi, vediamo poi cosa dirà domani Berlusconi, con che documento domani Berlusconi arriverà a Bruxelles, perché appunto l'Europa ci ha dato 72 ore che scadono domani. Ma mi ha impressionato questo dato, cioè la vostra prima indagine è del 2001 e lì c'erano solo il 38% delle persone nel 2001 che avevano timori per il futuro della pensione. Esatto. Nell'indagine di oggi a quanto sono arrivate queste persone? All'80%, quindi i tranquilli erano il 56%, oggi sono il 18%, cioè si fa strada la consapevolezza o il timore che sostanzialmente all'indomani dell'uscita del mercato del lavoro si vada incontro a una situazione di impoverimento complessivo. Questo preoccupa molto. E cosa vuol dire che gli italiani però tornano a investire ma crolla il mattone? Significa che una delle domande che poniamo ormai da 10 anni è: qual è secondo lei l'investimento ideale? Allora, il mattone è da sempre ai primi posti, però in realtà vediamo che c'è un calo molto brusco della citazione dell'investimento in mattone, dal 54% al 43%, e noi lo colleghiamo, diciamo, a tre elementi. Il primo, che c'è la percezione di una flessione del valore degli immobili. Il secondo, l'aumento dei tassi, e il terzo aspetto, si sta parlando da tempo di una possibile tassa patrimoniale o addirittura la reintroduzione dell'ICI, e questo rende un po' meno appetibile il mattone. Che cosa cresce? Crescono due voci. La prima, gli strumenti finanziari più sicuri, e quindi sostanzialmente i titoli di Stato e le obbligazioni, che passano dal 23% al 30% nelle preferenze delle persone che abbiamo interpellato, e la seconda, un po' più preoccupante, il fatto che cresce di 5 punti, da 18 al 23%, la citazione nessuno, non investirei, non esiste per me un investimento ideale, 1 su 4 circa. Che tanto, colgo la battuta di chi dice, beh, aumenta la spesa in farmacia perché uno va a comprarsi gli antidepressivi, adesso prendiamola come battuta. Pagnoncelli, lei come ogni sera sarà, anche questa sera Ballarò, adesso non voglio che bruci quello che deve dire, non voglio anticiparlo troppo, però mi interessa una cosa, viste le tensioni di questi giorni a livello soprattutto europeo, in cui l'Italia è stata definita da tutti come il problema in questo momento, e questo ha avuto un impatto poi sugli elettori? Beh, ha un impatto sicuramente, perché se da un lato gli elettori ormai da diversi mesi manifestano un atteggiamento di forte critica nei confronti della politica, che si manifesta in una dichiarazione di astensione, di volontà di astensione molto più larga rispetto al passato, dall'altro la vicenda che ha visto il protagonista Merkel e Sarkozy, il sorriso insomma nei confronti del nostro paese, non è stata vissuta in termini molto positivi. C'è una sorta di sussulto di orgoglio nazionale che ci porta sostanzialmente a valutare negativamente, molto negativi questa situazione. Sì, devo dire che la condivido in tutto. No, alcuni mi criticano perché ho detto 4-5 anni, mamma mia. Sì, mi sembra un po' tanto 4-5 anni. Poi sappiamo tutti che questa crisi prima doveva finire nel 2010, poi nel 2011, poi adesso nel 2012 faremo più 0,3%, per cui spero che si sbagliano. Prego, Pagnoncelli. Certo, no, diciamo che gli italiani non sono economisti, e poi mi pare che anche gli economisti fatichino un po' a trovare una data o comunque per vedere una fine di questa crisi. Quello che a me colpisce molto è che c'è un terzo circa dei rispondenti, un 32%, che pensa che ci vorranno da 5 a 10 anni. Allora, è chiaro che non ce la posso fare, da 5 a 10 anni di focus economia così non ce la posso fare. Assolutamente, però la ringrazio, Pagnoncelli, per aver... Però ecco, alla mia solidarietà, però al di là di questo, diciamo, è chiaramente una distorsione della percezione della crisi legata alla preoccupazione. La preoccupazione ci porta a essere più pessimisti, e tutti gli indicatori del nostro barometro, che ripeto, ormai è giunto all'undicesima edizione, fanno segnare, come dire, una caratterizzazione di forte pessimismo. Sì, siamo i gufi di noi stessi, non ho tempo per mandare il gufo però adesso. Grazie Nando Pagnoncelli, presidente della Ipsos. Grazie da a voi. Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata a voi in ascolto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.